Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata delle porte di Tannhäuser. Qui con questo caldo afoso. Si muore. Cioè, noi non siamo. No, penso non risponderemo molto delle nostre azioni oggi. Cioè, veramente è un caldo al di là di ogni aspettativa. 13:59 onde mediocri. Potete scriverci a postawombat@insiberia.net oppure ora qui in diretta a direttawombat.vado.it. Lì, punto lì. Punto it, lì. Dove vado? Lì. Lì. Sì, allora, siccome veramente siamo stordite dal caldo, perché questa Wombat Regia ci sta, cioè che generalmente è molto accogliente, per niente disagevole, oggi veramente sta dando il meglio di sé, ci sono una temperatura circa di 77 gradi percepiti, quindi diciamo che la nostra capacità di fare dei discorsi razionali e con un certo filo logico è molto bassa. E anche decidere che puntata fare oggi, ecco, abbiamo detto va bene, facciamo qualcosa con poco sforzo, perché non siamo in grado di fare molto. Quindi vi beccherete una puntata che è un po' l'ultima puntata di stagione, in effetti, perché ci siamo dette che ora è troppo, cioè va bene la tortura, ma non ce la cogliamo oltre questa temperatura corporea. E quindi abbiamo deciso che, essendo l'ultima puntata di fine stagione, vi diamo dei consigli, vi vogliamo lasciare in bellezza dandovi dei consigli per l'estate, per cosa leggere, cosa guardare, cosa immaginare, grazie alle opere che vi consiglieremo. Giusto? Ci vedo per assolutamente plus. No, ho scritto sul pad che ci siamo, di cosa parliamo. Partiamo, vabbè, rilassiamoci subito, partiamo con un pezzo di apertura e poi iniziamo con i nostri consigli, che andranno da libri a fumetti a videogiochi a serie televisive. Sì. Boh, le cose un po' che ci hanno colpito ultimamente o nel tempo, anche perché io quando ero a preparare tutte le puntate parlo di qualcosa che sto leggendo, quindi sì, in realtà sì. Rischio di ripetermi tanto. Infatti io ho anche avuto il dubbio mentre scrivevo le cose, alcune, di averne già parlato. Nel caso tu censurami, dimmi tipo, ma dammi una gomitata. Penso io me ne ricorderò. Vabbè, allora avrete pazienza, amiche o amici. Lo facciamo wombati. Anche, esatto, lo facciamo anche per chi per la prima volta. Sì, certo, o per fare un recap, magari ve ne avete dimenticate, ecco. Va bene, rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, pezzaccio e poi partiamo in bomba. What's happening, people? This your boy LaRon Thomas out of NYC, by way of H-Town, chilling with Fab and Guts, having a good time, baby, telling the truth, baby, you know what I'm saying, not exploiting the youth, baby, all that good stuff. I don't know why I said that, it just rhymed, but you know what we're doing right now? We're doing that album, Hip Hop After All, roll track. Can tell by the friendly chat that you're up for the milky wax. you want to taste. Pheromones all over the place. Got you hot, look at your face. Know what you're wearing tonight and what it means. You know all the nasty things it's to bring. Peripherally hitting me with the mind game. Subliminally letting me know that we can play. Got good sense to know the dose you got. You let me own the field and take the yard. Take this money and buy you. Gonna make this money and rob you. E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, dalla cantina del Wombat, dove non teniamo i vini perché fa troppo caldo. Sì, ma non diventa una scelta. In questo caso. Ma per rinfrescarci, partendo con i nostri consigli per l'estate, partiamo da un paese nordico, ambientato in un posto freddo. Estremo. Raccontaci. Sì, perché il nesso è proprio quello, cioè trovare l'esotico freddo, finalmente. Quindi, allora, un libro che ho letto qualche mese fa ormai e che mi ha veramente colpito e che mi sento di consigliarvi moltissimo si intitola Vardo dopo la tempesta, che è di Kieran Millwood Hargrave, cioè questo doppio cognome. Vardo io non so assolutamente come si legge in norvegese, io lo leggo così, brutale, però insomma tanto si scrive anche Vardo, quindi lo trovate facile. Edizione Neri Pozza, che devo dire sta facendo uscire dei libri piuttosto belli negli ultimi anni. E è un romanzo, si potrebbe definire un romanzo storico in qualche maniera, ed è però un romanzo che parte da un fatto vero, storico, successo veramente. È ambientato nel 1617, appunto, a Vardo, che è un paese, poi vi dirò meglio le caratteristiche di sto posto. Comunque potremmo definirlo ad oggi nella Norvegia nord-orientale, diciamo che è il posto più estremo a nord della Norvegia, proprio in fondo. È un paesello di base, quasi un'isola, se non addirittura proprio forse un'isola, non ricordo, forse non è un'isola ma poco ci manca. E questo romanzo trae ispirazione dai processi alle streghe di Vardo del 1620. E cosa succede in questo romanzo? Praticamente l'inizio è un inizio col botto, perché di base vi spoilero tutto subito, perché tanto succede tutto nelle prime tipo due pagine. Vabbè, quindi non è uno spoiler. Non è un vero spoiler. Fondamentalmente si addensano le nubi in questo piccolo paesello che vi dovete immaginare veramente sperduto, recondito, freddissimo, inospitale nel 1600. Si addensano le nubi, si capisce che sta per arrivare una tempesta. Arriva sta improvvisa tempesta dal niente, che gli uomini erano andati, gli uomini del paese, pescatori, paese di pescatori, come diremo poi dopo meglio, vanno in mare per pescare come loro solito. Tempesta, mega tempesta improvvisa, boom, spazza via tutte le imbarcazioni, muoiono tutti gli uomini del paese, perché a pescare ovviamente sono solo gli uomini nel 1600. Quindi d'un colpo solo muoiono tutti e 40 gli uomini del paese, quindi si salvano fondamentalmente qualche vecchio e qualche bambino, ma di base muoiono tutti gli uomini del paese. Quindi che succede? Le donne, che a questo punto seguono tutta la vicenda dalla riva, perché vedono arrivare la tempesta, vedono tutto. E poi i corpi portati alla riva. Quindi si devono accollare la gestione dei postumi di sto naufragio, perché devono prendere i corpi, devono seppellirli, devono... Poi è bello il libro perché si entra in una serie di dinamiche che tu non puoi dare per scontato. Per esempio, come li seppellisci dei corpi quando c'è meno 50, che la terra non la puoi scavare? Quindi li bruci. Li bruci. Problematico. Quindi vabbè, ora non vi sto a entrare troppo nei dettagli. Comunque c'è tutta una serie di di problematiche, purtroppo insomma piuttosto pesanti, alle quali queste donne devono avviare, e devono anche a un certo punto imparare a pescare, cioè organizzare la propria vita di villaggio, di pescatori sostanzialmente, senza gli uomini e soprattutto senza saper pescare, perché di base loro avevano altre mansioni e devono imparare a pescare. Questo di per sé sarebbe un incipit magari un po' sì drammatico, però vabbè, tira via. Se non fosse, questa cosa è successa davvero nel 1600, nel 1617 in particolare, e che a un certo punto questo fatto che esiste questo paesello di sole donne che iniziano un po' a cavarsela da sole, che imparano a pescare, si mettono i pantaloni, tutta una serie di cose, si sparge la voce e in questo paese viene mandato un emissario della poi lo vedremo meglio, del re della Danimarca, fondamentalmente manda questo emissario, che è un inquisitore, perché dice: a me non mi convince questo fatto, queste qui sicuramente saranno streghe. Da lì si innesca un processo che va a finire malissimo, e che è famoso perché insomma il processo di Vardo è uno dei processi alle streghe più famosi della storia. Solo a Vardo, che veramente era un posto molto molto piccolo, nel 1621, l'anno in cui ha luogo questo processo, vengono bruciate sul rogo 77 donne e 14 uomini, cioè fondamentalmente quei poveri pochi uomini che rimanevano hanno ammazzati tutti. E quindi di base viene sterminato un intero paese, perché i numeri erano questi fondamentalmente. L'antefatto è questo, che cioè diciamo il contesto storico è questo. Nel 600 teniamo presente che la zona di cui stiamo parlando, che è una zona un po' vasta, che ora chiamiamo Norvegia, ma in realtà cioè, non è solo la Norvegia, c'ha dei confini un po' più larghi. Comunque in queste coste nordiche in cui è ambientato questo romanzo c'erano circa 3.000 persone, di cui una metà erano norvegesi, l'altra metà erano sami. I sami sono il nome con cui vengono chiamati, loro stessi hanno scelto di chiamarsi gli indigeni di quelle terre. Generalmente vengono chiamati da noi occidentali Lapponi, ed è un termine dispregiativo, in realtà un termine assolutamente sprezzante che viene usato. I sami invece si definiscono così e sono di base non hanno una vera e propria nazione, sono gli abitanti di una regione i cui confini rientrano, diciamo, tra la Norvegia, la Finlandia, la Svezia e la Russia, quel pezzettino di mondo là. Poi è un popolo che di base nel 1600 viveva prevalentemente di pesca, e le donne dei villaggi erano generalmente, stavano da sole, perché come si sa, i pescatori vanno magari a pescare per giornate, le donne vengono lasciate da sole. Di base questo crea un po' una base di diffidenza e di dicerie, di leggende, per cui si inizia a innescare un punto d'appiglio per poter poi dar vita ai processi alle streghe. Vabbè, tanto gli appigli erano, si trovano ovunque, li puoi trovare. Si trovano. Ma la realtà narrata da questo romanzo, perché fin qui sarebbe abbastanza storia nota, diciamo, niente che non abbiamo mai sentito dire, sì, con qualche tocco un po' più esotico, ma di fatto più o meno l'abbiamo visto succedere in varie parti dell'Europa. Ma la cosa interessante, non solo dell'Europa, ma la cosa interessante è che in realtà in questo romanzo si racconta una visione, la scrittrice è di origini sami, quindi insomma, diciamo, gli sta parecchio a cuore la questione, e quando ne parla racconta e spiega un po', sia attraverso il romanzo sia attraverso un'appendice che trovate in fondo, storica, che spiega molto bene tutta questa questione, il fatto che in realtà alle base di tutto questo fenomeno c'era di base la volontà di fare un genocidio di base mandar via le popolazioni locali. Qui fondamentalmente un'operazione colonialista in piena regola, dove i processi alle streghe vengono usati in realtà come scusa e come metodo per sterminare intere popolazioni che davano fastidio perché erano indigeni. Quindi da un lato il paganesimo dei Sami non piace, e dall'altro lato di base tutto c'era fondamentalmente una scusa. Perché nel 1600, come succede questa cosa? Nel 1617, quindi negli anni in cui viene narrata questa storia, il re di Danimarca e Norvegia, che è Cristiano IV, approva una legge contro la stregoneria, che poi viene estesa a quella che veniva chiamata la contea di Finnmark. Quindi iniziano nelle varie colonie che avevano, nelle terre più sperdute, viene applicata questa legge contro la stregoneria. Per farla applicare vengono spediti in queste varie angoli sperduti di queste regioni questi funzionari tedeschi e scozzesi, che fondamentalmente sono degli inquisitori e che istituiscono questi processi alle streghe. Ce ne sono vari, questo di Vardo è uno dei più noti, ma in realtà ce ne sono moltissimi. Se si va a vedere nelle carte, si inizia a guardare la questione un po' più approfonditamente, il grosso sono popolazioni indigene. Quindi di fondo, almeno in quelle zone là, questo è stato, da un lato c'è una grossa paura contro le donne, nel senso che effettivamente quando si legge anche proprio i documenti, perché mi sono andata un po' a scartabellare vari documenti dei processi eccetera, cioè veramente una misoginia malcelata, no, neanche malcelata, proprio non celata, impressionante, nel senso che proprio era come venivano proprio viste come nemico da annientare, cioè se ne parlava in questi termini, come un nemico pericoloso qualche modo da sterminare. Il tutto unito ai Sami, che anche loro erano problematici, chiaramente sì, niente, la questione è fatta. Il libro è molto carino perché poi ci mette in mezzo, oltre a tutte le questioni drammatiche, perché si raccontano le ordalie, si raccontano le torture, tutte quelle robe che noi abbiamo in qualche modo conosciuto e letto probabilmente, però almeno io su un territorio un po' diverso, perché ho letto magari dei tribunali dell'Inquisizione spagnola, di un mondo che era leggermente diverso anche nelle sue vittime, perché i Sami avevano effettivamente delle culture sciamaniche, pagane, per cui risultavano per certi versi veramente difficili da anche da incasellare. E quindi niente, quindi è piuttosto interessante come, come romanzo, è un po' non mistico, però sicuramente fantastico, c'ha degli elementi fantastici. Per esempio questa tempesta in realtà appare, cioè nel libro si suggerisce, ed è poi anche la tesi dell'inquisitore, che è stata scatenata da una balena, perché prima della tempesta si vede alla costa, si avvicina alla costa una balena. In genere si dice che la balena si avvicina alla costa se c'è un banco di pesci molto grosso. Quindi che succede? Gli uomini escono perché dicono: ah, possiamo prendere la balena. La tesi dell'inquisizione è: sono le donne del villaggio che hanno voluto uccidere tutti gli uomini evocando questa balena magica. E quindi sono state loro ad ammazzare tutti quegli uomini, quindi becche bastonate sostanzialmente. E niente, quindi però è bello perché c'è questo ricorrere di questa balena che in qualche modo veglia su questa, su questo paese di Vardo. Che figata. Molto figo tra l'altro anche la questione dello sciamanesimo lapone o comunque sami, legato all'uso del tamburo. Sì, che è uno strumento, sì, sciamanico, che ritroviamo in tantissime culture. Ma guarda, sono andata a vedermi, perché poi ovviamente, come sapete, ormai sono piuttosto nerd, mi sono intrippata ovviamente. Giusto. Sono andata a vedere e tra l'altro ci sono delle lotte feroci di rivendicazione di questi tamburi, perché questi tamburi poi dai vari coloni anglosassoni, certo, europei, sono stati presi, non capiti perché tendenzialmente venivano visti come strumenti musicali, esatto, buttati nei musei. E di recente vedevo questo grande festeggiamento da parte appunto di una comunità sami che festeggiava finalmente, dopo anni di battaglie, il ritorno a casa di uno di questi tamburi, che era stato esposto fino all'altro ieri in un museo etnomusicale tipo, non mi ricordo che posto, Edimburgo. In Olanda, va bene. Una roba del genere. No, sì, anche perché era l'uso dei tamburi utilizzato per entrare in contatto con gli spiriti e le divinità, che poi erano popolazioni legate molto ancora alla natura, a quello che le circondava, quindi parlare con gli spiriti aiutava ad entrare in comunione, a utilizzare. Quindi togliere questi tamburi era, sì, voleva, sì, voleva dire mandare alla cieca, no? Nel mondo il resto della tribù. Molto, sì, senza interessante. Contare che per loro le leggevo appunto soprattutto nel 1600, ma in generale c'era una divisione di ruoli tra uomini e donne. Per esempio, prima dicevamo, gli uomini andavano a pesca e le donne non è che stavano a casa a fare la calzetta. In realtà avevano un ruolo molto importante, che era quello di entrare in comunicazione con gli animali. Cioè, loro dovevano in qualche modo pregare, convincere gli animali a farsi cacciare. E quindi gli veniva riconosciuto una sorta di potere telepatico, diciamo. E loro entravano in connessione con questi animali e erano altrettanto importanti rispetto a chi poi faceva materialmente la caccia. Cioè era abbastanza un ruolo paritario questo. Fico. C'è nella serie di cui parlo spesso, no? Che è Dragonero, la serie della Bonelli, scritta da Bietti, Enoch. C'è la parte, c'è insomma tutta una collana dedicata al protagonista, la giovane, si chiama Senz'anima, e negli ultimi due, tre volumi c'è tutta una storia legata, che è tutto un mix di cosa, ve lo dico, è una storia dove insomma i nostri eroi con la loro compagnia di ventura vanno a cercare questo tesoro in mezzo alla foresta, una sorta di zona Maya. Però tutto si mischia molto anche altre culture. C'è la figura di questa sciamana che leggevo era proprio presa appunto dalla cultura lapponi, che suona il tamburo per aiutare i nostri eroi nel momento dove non c'è molto meno contatto con la natura, dove la natura è cattiva e quindi bisogna un attimo ammaestrarla. E è preso proprio da questo che cosa raccontavi te, Ganzo. Sì, guarda, sono piuttosto interessanti anche da studiare se vi intrippate come me. Poi andate a provare a saperne un po' di più anche su... poi come fondamentalmente sono stati spazzati via i sami, cioè sono stati colonizzati malissimo. Beh, diciamo che è iniziato con la caccia alle streghe, ma poi ha continuato anche con altri metodi, certo. Però di base davvero sono stati spazzati via e devastati completamente. Ma allora erano delle culture in qualche modo anche autogestite, vengono definite davvero così spesso, E sono interessanti da studiare perché erano dei modelli anche di sociali, di organizzazione sociale, piuttosto secondo me interessanti da studiare. Allora, mi inserisco io allora invece, prima di passare al prossimo, perché mi sono imbattuto in questa serie animata giusto 2 giorni fa, che si chiama Leviathan. Non conosco. È un mix tra steampunk e biopunk. Ah. Quindi disegni, vabbè, un po' mangosi, però un pochino più tondi. Però la cosa, la cosa ganza è l'ambientazione. Perché questa ambientazione è calata sulla Prima Guerra Mondiale, proprio l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Infatti il nostro protagonista è il figlio di Ferdinando, che viene ucciso, no? E che farà scoppiare poi la Prima Guerra Mondiale. Quel Ferdinando, esatto. Però è un mondo diverso, chiaramente, quindi è una distopia, e dove fondamentalmente il mondo non si divide sempre in due, no? Che ci saranno poi le potenze centrali e le potenze, gli alleati, insomma, come sappiamo nella Prima Guerra Mondiale. E qui la divisione però è tra cigolanti e darwinisti. Oddio, cosa sono i cigolanti? Fighissimo. I cigolanti classici, che sono tutti gli imperi centrali, quindi gli austriaci, i tedeschi, insomma, quei popoli molto legati alla tecnica e all'illuminismo, e che quindi fondamentalmente hanno robot. Quindi, per esempio, hanno queste corazzate con le gambe, quindi sono navi corazzate con le gambe che si muovono, bipodi... quindi classiche mega macchine da guerra, e per farsi qualsiasi cosa, chiaramente hanno tutto fatto di macchine e ingranaggi. Certo. I darwinisti invece seguono la via appunto di Darwin, ma attraverso la scienza gli danno un impulso. Per cui, per esempio, per darsi messaggi ci sono queste piccole lucertole dove te gli dici la cosa, la lucertola registra tutto quello che gli hai detto, poi va da chi deve dargli il messaggio e gli risputa fuori il messaggio. Bello. Oppure, appunto, mi veniva in mente proprio dal racconto, dicevi te, la grande balena che difende. Ci sono queste balene che, grazie a questi studi genetici, per cui loro sono riusciti a mettergli dei batteri nella pancia che gli fa creare dell'elio. E quindi i dirigibili famosi nella Prima Guerra Mondiale sono balene. No. Fighissimo. E non solo, loro combattono, per esempio, i soldati che stanno dentro queste balene volanti, che sono Zeppelin. Cioè, gli fanno fare sempre di tutto. Le balene sono il meglio del meglio. E lanciano, per esempio, questi pipistrelli che sputano acido. Oppure hanno addestrato dei vari uccelli che fanno le cortine fumogene. Cioè, ganzo. Mi piace molto questa cosa. Mi ha preso, devo dire, mi ha preso. Poi, chiaramente, c'è tutta una storia dentro in cui, chiaramente, personaggi di entrambi gli schieramenti si incontrano e, in qualche modo, capiscono che tutto sommato, insomma, viva l'amore, viva l'amicizia, al di là della guerra, in un mondo che sta andando proprio verso la Prima Guerra Mondiale, che è scoppiata in realtà. Io lo sto guardando, nel punto in cui sono arrivato è scoppiata. È andata. È andato di fatto. Però, insomma, ganza questa cosa, questa ambientazione e questi animali usati, insomma, fico. Quindi Leviathan. Consiglio per l'estate, Leviathan, scaricatelo chiaramente, se no Netflix. Allora, invece, tornando ai libri, un libro che sto finendo di leggere in questo momento, quindi mi manca veramente le ultime pagine dell'ultimo racconto, quindi ne posso parlare, diciamo, è Noia Terminale di Suzuki Izumi, libro che aspettavo di avere tra le mie mani veramente da tanti mesi. E finalmente sono riuscita ad averlo. Perché? Perché è finalmente la traduzione italiana di questa autrice, che è la prima volta che viene tradotta in italiano. Ma è un libro che è stato scritto in realtà tra gli anni 70 e gli anni 80. Per la precisione si tratta di sette racconti scritti tra il 77 e l'84. Quindi, insomma, ci è voluto un bel po' perché arrivasse in Italia. Tra l'altro ci è voluto un bel po' anche perché arrivasse in Giappone, ma questo poi è un altro capitolo. E è edito da ADD Editore, l'anno scorso è uscito, e tra l'altro questa è la prima, l'editore ha dichiarato che è la prima di una trilogia, perché verranno, è già uscita la seconda parte, diciamo, la seconda raccolta di racconti, che si chiama Hit Parade di Lacrime, che è uscita veramente da poco, ancora quella non l'ho letta, e poi ne uscirà una terza tra qualche mese. questa prima raccolta, appunto, sono 7 racconti. E lei, e Suzuki Izumi, perché ero in trepidante attesa? Perché è un personaggio famoso per essere una specie di icona nera giapponese, cioè un po' di queste eroine maledette di cui si parla male finché non muoiono. E adesso praticamente era sostanzialmente una modella, tra l'altro è fotografata spessissimo da Nobuyoshi Araki, che è un fotografo, fotografie erotiche per lo più, bellissimo, faceva la roba stupenda. E lei era una tipa che finiva spesso nelle sue fotografie, era un'attrice abbastanza iconica, appunto, di film, quel filone di un po' soft core, che si chiama Pink Uega, giapponese. E lei, niente, era una modella, attrice di questi film nei primi anni. Poi dopo inizia a darsi a dei film un po' più de sé, chiamiamoli così. E per inquadrare la questione, diciamo subito che lei si suicida nell'86 a 37 anni. Quindi una vita di sostanzialmente dipendenze da sostanze, piuttosto sregolata. Si suicida, tra l'altro, impiccandosi con dei collan a fianco della figlia. Quello? Ma che roba è? Oddio, cioè, no, veramente, mentre la figlia dormiva. Cioè, una roba che proprio dici, sì, però, dai, cioè, ma... Un minimo. Più carino, dai. Vabbè, niente, della figlia non c'è dato sapere che fine ha fatto. Io non penso una bella fine. Comunque, vabbè. Quindi, un personaggio comunque ridente e con dalla vita rilassata e... Nel 73 lei si era sposata con Abe Kaoru, che è uno sassofonista free jazz giapponese molto importante. Cognosco. Uno di quelli che ha fatto un po', dava vita a quel mondo, quel pezzo di controcultura giapponese dell'epoca. Peraltro lui morto di overdose pochi anni dopo il matrimonio. Fantastico. Questa era la famigliola felice. Ottimo. E lei, in tutto questo, sulla loro storia, ecco, diciamo che loro poi sono stati famosi perché su tutti e due, lei ma anche lui, intanto lei perché era bellissima, quindi è sempre molto facile rendere iconiche delle donne splendide, certo, lei molto canonizzate, è effettivamente era strabella e quindi era un po' alla, non lo so, alla ED, cioè queste dive anni 60 traumatizzate da Andy Warhol. No, Edie, che è una delle modelle di Andy Warhol, finita malissimo, okay, pure lei. Insomma, questo mondo un po' di modelle tormentate, bellissime, ma che poi diventano icone perché si strafanno e finiscono male. E niente, lei è una di queste, se non fosse che lei ha scritto della roba bellissima. Perché tutto questo gli ha valso, diciamo che la sua vita sregolata, tra virgolette, gli ha valso un po' di fama, gli ha valso l'essere, cioè il finire sui vari rotocalchi, mi piace dire rotocalchi, sui giornali scandalistici e tutto quanto. Poi consideriamo il Giappone dell'epoca, ecco, il Giappone che esce dalla Seconda Guerra Mondiale, ne abbiamo parlato tante volte di quel Giappone lì, toyotismo, tutto quel mondo là. In quel mondo là lei è un personaggio scandaloso per la sua vita, però lei in tutto questo ha scritto della roba bellissima, e in particolare ha scritto dei racconti di fantascienza parecchi, che sono splendidi, nel senso che io poi vi confesso, molto spesso mi rendo conto che sono affascinata da questi personaggi che magari sono scrittori, mi leggo i loro libri e poi i libri si rivelano una grande delusione, magari l'idea era buona ma lo stile non mi piace, sono scritti un po' male, bruttini. No, lei, devo dire che a me, secondo me, anche da un punto di vista proprio stilistico, scrive veramente bene. E i suoi racconti spesso sono stati paragonati a Philip K. Dick, nonché ovviamente a Ursula Le Guin, ma penso un po' per le tematiche, un po' perché è una donna di base. Forse principalmente ma quello. Sì, ma sì. Però il paragone con Dick secondo me non è buttato di fuori, e lo dico da grande fan di Dick, come sapete, perché ci si ritrova molte delle atmosfere, quello spaesamento, cioè tutti i suoi racconti sono crisi di sto, appunto, sto spaesamento. E questo non è un caso che si chiami noia terminale il, la raccolta dei racconti. C'è una sorta di freezing traumatico, cioè le protagoniste di questo, che sono quasi sempre donne, le protagoniste sono sempre un po' bloccate, sono un po' non è che sono sceme, non sono, anzi sono tutt'altro, sono molto, si rendono conto di un sacco di cose, sono molto caustiche, molto taglienti, però sono bloccate, sono come congelate in un trauma, e questo trauma è il dover vivere in un mondo che le ha bombardate di tecnologia, la buttate in una società ipercapitalista, ipermoderna, molto fredda, molto autoritaria, e quindi la reazione a questo è sostanzialmente una sorta di freezing, appunto, almeno nei suoi racconti. Le altre tematiche sui tipi che sono l'androginia, la fluidità di genere, ricordiamocelo, siamo nel 77, cioè lei scrive questi racconti dove i personaggi cambiano genere in continuazione come una cosa normale, come una cosa ovvia, nel senso non viene posto al centro del racconto come oddio ora vi racconto una cosa troppo buffa, no, è una roba ovvia e, che insomma è particolare. E ci sono tre racconti, due racconti che mi sono piaciuti particolarmente, che sono, uno è il primo, che è proprio un mondo di donne e donne, che è molto sottile, perché la trama è abbastanza così, è un mondo fatto, come dice il titolo, di sole donne. Gli uomini fondamentalmente vengono ritenuti responsabili della catastrofe naturale, cioè c'è una catastrofe ecologica di cui probabile non si spiega, e loro dicono vero. Sono gli uomini il problema, non si sa bene il perché, per come, biologicamente è colpa loro. Quindi gli uomini vengono presi e buttati tutti in dei campi di prigionia e reclusi lì. La protagonista, che è una ragazzina di base, che vive in questa società completamente matriarcale, a un certo punto, per sbaglio, vede un uomo. Cioè, gli passa sotto la finestra uno che le dice, ma aspetta, ma questo è un uomo. E all'inizio rimane completamente spiazzata perché dice, no, aspetta, forse è una donna che si veste da uomo, ce ne sono effettivamente. No, no, a un certo punto si rende conto che no, è proprio un uomo che si definisce uomo e tutto quanto, e al che inizia a seguirlo, inizia a esserne incuriosita. Da lì inizia un rapporto con questo personaggio che si rivela essere ambivalente, cioè non è né un personaggio positivo né un personaggio negativo, devo dire. E così anche lo stupore suo di lei al conoscere gli uomini, che normalmente in quel tipo di società non è che viene negato ogni contatto, ma il contatto con gli uomini avviene attraverso momenti molto regolamentati, perché è una società estremamente autoritaria, estremamente dove ogni cosa è molto regolamentata, e quindi le ragazzine non gli viene precluso ogni contatto con gli uomini, ma avviene attraverso una sorta di gita scolastica, certo. Cioè ogni tanto le portano in questo zoo, fondamentalmente, che è fondamentalmente su prigioni, dove loro conoscono gli uomini, però questo chiaramente è una roba, vi potete immaginare che tipo di incontri ci sono. E, ora, lei, vista detta così, potrebbe sembrare un racconto quasi problematico, nel senso che detta così potrebbe essere pure il voler criticare certo tipo di femminismo troppo. Vabbè. In realtà è estremamente sottile, perché fondamentalmente quello che critica tantissimo lei è il potere, l'esercizio del potere e una società iperregolamentata e iperautoritaria, come quella giapponese peraltro e come altre. Quindi in realtà quello che si capisce abbastanza bene da questo racconto è il come le persone devono essere in grado di maturare i propri rapporti, le proprie relazioni, senza un'imposizione autoritaria che, certo, le costringe in una direzione o in un'altra, perché altrimenti se è un autoritarismo arrivato calato dall'alto, questa cosa non può che generare dei mostri. E, certo, e niente, poi ora è molto più bello leggerlo che non sentirlo raccontato da me, però è piuttosto interessante anche per come viene scritto. Bello. Invece mi è venuta voglia. L'altro racconto buffo è, si chiama Picnic Notturno, dove ci sono praticamente degli... Si scopre mano a mano che praticamente ci troviamo su un altro pianeta, non si sa quale, e ci sono degli alieni che si divertono a recitare il ruolo della tipica famiglia umana. Cioè, a un certo punto c'è questa famigliola felice, veramente di chiana, cioè di queste famigliole anni 60, americane anni 60, per come viene definita. Padre, madre, due figli, uno maschio e una femmina, e molto così, con lei che fa la casalinga, lui che lavora. Famigliola proprio tipica. Sì, sì, anni 20 trasportati nel futuro. A un certo punto ci si rende conto che questi non sono umani, ma sono degli alieni che stanno giocando a fare la famiglia umana. Giusto. E quindi fanno i cosplayer degli umani. Nel farlo fanno un sacco di errori, fanno, enfatizzano delle robe, certe robe dicono: ma perché c'hanno sta fissa? Per esempio, che ne so, anche i generi dei bambini dicono: abbiamo capito che bisogna avere, cioè che la famiglia deve essere fatta con un bambino maschio e una femmina, perché è meglio così. Quindi tu ora che eri un maschio, ora fai la femmina, e si invertono. Iniziano un po' a giocare con questi ruoli, e che è anche un modo palesemente suo per mettere in ridicolo la famiglia borghese tipica. E niente, ed è molto divertente. Ganzo. Perché ci Ganzo. Giocano un sacco. Probabilmente la puntata di Love Death Robots, dove ci sono i robot che vanno, insomma, ripercorrono, vedono un museo degli esseri umani e fanno finta di essere, insomma, giocano a farlo. Potrebbe essere anche tratto da questo racconto. Fico, molto fico. Esatto, questo è. Allora, ci fermiamo un attimo e poi passiamo alla prossima, al prossimo consiglio che farò io. Inizierò. Bravo. Io con un bel audio introduttivo. Quindi rimanete qui con noi, le porte di Tannhäuser, consigli per l'estate. Gli uomini si domandano: chi siamo noi? Che cos'è la vita? Che cos'è lo spazio? E poi muoiono senza conoscere le risposte. È questo il destino degli uomini. Il paesaggio di un tempo, con un po' di quiete e un po' di speranza. Gli uomini, quando vengono calpestati, alla fine si alzano in piedi. Che stringono nelle loro mani è un incentivo all'evoluzione e sprigiona una forza enorme con la quale gli uomini combattono. E così vengono a contatto con la disperazione. Gli uomini si chiedono: perché si combatte? Perché si uccide? Perché si distrugge? E poi muoiono senza conoscere le risposte. È questa la felicità. Insulsa, abbiate terrore di fronte a questo potere assoluto. Inchinatevi allo sgomento schiacciante e alla disperazione, al cospetto del nome del respirare. E rieccoci qua, queste sono le parti di Tannhäuser e passiamo al prossimo consiglio per l'estate. Avete appena sentito l'incipit, l'intro dell'eterno Tengentoppa Garren Lagann, ossia, meglio conosciuto, sfondamento dei cieli, Garren Lagann, per noi in italiano, chiaramente. Sembrava molto Miagoleamo nel buio, quello. È giusto, è giusto. Quando stiamo andando? Allora, non posso non consigliare, l'ho già consigliato in passato, quindi qui sì, mi so di starmi ripetendo, è uguale. Ma è una roba da guardare, secondo me. Garren Lagann, una serie televisiva di animazione, un anime giapponese a tutti gli effetti, dello studio Gainax, che insomma uno studio che ha fatto tanta bella roba, prodotto tra le altre anche da Konami, quindi insomma una grande produzione, ma sono stati bravi. Sono 27 episodi, poi hanno fatto anche un film, o forse due. Andata in onda per la prima volta nel 2007 in Giappone, poi è arrivata qualche anno dopo da noi, qui in Italia, tradotto e doppiato. Quindi tranquillamente accessibile. Ecco, due film riassuntivi hanno tratto dall'anime, che volendo ti puoi guardare questi due film e invece guardarti la serie. Però secondo me la serie è da guardare. Facciamolo ripartire da capo, piacevole. E qual è la trama? La trama è molto semplice, avete sentito, molto parte come molto negativo, no? Avete sentito dall'incipit: in un lontano futuro l'umanità è ridotta a vivere in villaggi sotterranei, senza alcun contatto con il mondo di superficie, né tantomeno con gli altri villaggi. Quindi l'umanità vive in villaggi isolati, sottoterra. Perché? Perché la superficie terrestre è dominata da questi alieni, fondamentalmente. Per cui gli umani, se escono lì, vengono catturati e resi schiavi, o non si sa bene che fine facciano. Comunque di base vengono sterminati. Quindi tutto parte da un contesto in cui un villaggio tutto chiuso, molto liturgico, e segue una liturgia legata all'estremo alla estrema ricerca di salvezza, per cui non si può mai uscire, non si può parlare di certe cose, si deve fare sempre le cose in un certo modo, bisogna poi loro chiaramente sottoterra è una vita difficile, perché per poter crescere, per poter espandersi devi scavare tunnel. Però scavare sottoterra rischi, ma più che altro rischi di rimanere sotterrato se non scavi nel modo giusto. Rimanere offeso. Il nostro protagonista Simon è chiaramente uno invece che trivella duro e che gli piace trivellare, e che è molto curioso, che incontrerà poi ben presto insomma, troverà degli alleati, degli amici con cui porterà avanti la sua avventura, che sarà tutta chiaramente in superficie per cercare di liberare in qualche modo l'umanità, ma in realtà è più una liberazione di se stessi, degli amici, di... è più una cosa interiore che l'eroe che salva l'umanità, perché non si sa dove sono gli altri umani, sono quanti ce n'è, non si sa. Quindi in realtà è più una liberazione personale, riuscire a levarsi dalle catene appunto del vivere nel sottosuolo, delle liturgie, liturgie che impongono un certo numero di persone. Cioè il villaggio può, metti, io ti dico un numero a caso, 100 persone, più di 100 persone non può ospitare perché non si trova abbastanza cibo. Se ci sono delle nascite in più, i bambini vengono sacrificati e buttati fuori, nel sottosuolo. Nel sottosuolo, sopra. Certo, e che però si sa che lì vanno in pasto. Lì vanno in pasto alle bestie. E quindi, insomma, tutto parte un po' da un attacco al villaggio di lui. Il nostro protagonista si sacrifica al posto dei bambini per andare su non fare uccidere i bambini. Da lì c'è tutta però una storia che si sviluppa sempre di più. Sì, è un anime, un manga legato ai robot, però robot in modo diverso, che si connettono grazie a emozioni, non semplice meccanica. E più che altro c'è una scrittura veramente molto divertente, fa molto ridere, però fa anche piangere, è veramente una bella opera divertente da assaporare. Quindi io, questo è il primo, no, il secondo a questo punto, siamo a Leviathan, consiglio che do per l'estate se non l'avete vista. Molto interessante. Allora io rimarrei in Giappone quasi quasi. Oh, sì. Tanto mi sa che oggi sarà così. E niente, sì, un altro libro che vi consiglio, sempre giapponese, è di Ayase Maru, che si intitola La foresta trabocca, sempre per la DD Edizioni. Vi confesso che mi sto facendo una scorpacciata dei libri di questa casa editrice, perché non capita spesso di poter leggere tradotta letteratura di fantascienza o fantastica asiatica, e purtroppo in Italia è una novità che venga tradotta, e quindi me ne sto approfittando. La foresta trabocca è fondamentalmente la storia di questa Rui, questa donna che è frustratissima dalla sua vita quotidiana, e soprattutto poi scopriremo a un certo punto dalla relazione tossica che ha con il marito, lei che fa? Ingerisce un'intera ciotola di semi. È molto bello perché tutto inizia, anche qui vi posso spoilerare perché inizia subito così, che lui è uno scrittore, il marito è uno scrittore molto famoso, e quindi lei, diciamo, vive all'ombra di questo scrittore famoso, e mentre sono a un incontro di lavoro a casa di loro, dove c'è anche la moglie presente, lei in un angolo un po' di messa si mette a sgranocchiare queste noccioline, e a un certo punto a ben vedere ci si rende conto che non sono noccioline ma sono semi. Lei si mangia questa intera ciotola di semi che poi germogliano, e lei praticamente inizia a germogliare da tutto il corpo. Quindi diventa una sorta di donna pianta che si trasforma in una specie di Akira, potremmo dire, di Tetsuo, in questa groviglio di radici, di filamenti, di rami. E lei piano piano, prima è lei, poi questo groviglio inizia a diventare piano piano una foresta che ingloba prima la stanza, poi il palazzo, poi il quartiere e piano piano l'intera città. E questa cosa è, insomma, molto bella come viene descritta, sotto gli occhi di un marito che sostanzialmente è abbastanza, non dico indifferente, perché a un certo punto si pone il problema, però non è che va completamente in panico. Cioè, vede che lei si sta germogliando, e quindi che fa? La mette nella vasca da bagno, perché così poi gli può dare, è più comodo anche annaffiarla. E niente, quindi questa, che è una roba tipica, uno stile tipicamente asiatico, secondo me. Niente, c'è questo marito che di base non si rende conto della questione perché passa la vita a ignorarla e quindi non vedo perché ora che è una pianta dovrei accorgermi. Anzi, pure meglio. Ma pure meglio, se non fosse che poi lei ingloba tutto, insomma. E ora, questo stesso motivo, diciamo, questa stessa trama era già stata scritta paro paro da Han Kang, scrittrice coreana che vi ho citato anche altre volte, bellissima, Nobel nel 2024, l'anno scorso, premio Nobel della letteratura per La vegetariana, che è un racconto, un romanzo violentissimo, devo dire. E lei nel racconto, una serie di racconti, in particolare una serie molto bella di racconti suoi, ce n'è uno del 97 che si intitola Il frutto della mia donna, la cui trama è fondamentalmente uguale. Fondamentalmente questa ragazza, qui non si tratta di marito e moglie, ma insomma è una ragazza che... no, scusa, c'è anche qui il marito, cioè, che non si sbaglia. Comunque lei inizia a rifiutare cibo, un po' come avviene anche nella vegetariana peraltro, e accetta solo la pioggia che cade sul balcone e il sole che entra alla finestra. Lei inizia piano piano questa specie di deperimento, cioè a smettere di nutrirsi, smettere di fare qualsiasi cosa, lasciarsi morire sostanzialmente, ma con questa serenità anche, se vogliamo, perché in realtà guardare fuori dalla finestra, entrare in contatto col sole, con la pioggia, in realtà la fa star bene, a quanto dice, e lentamente si trasforma in una pianta, anche qui sotto lo sguardo di un marito che fondamentalmente sta inerte, sta inebetito, non... Alla fine è lui la pianta. In realtà sì, è lui la pianta e non se ne rende manco conto. E comunque lei in tutto questo, anche qui, Han Kang, La foresta trabocca di Ayasemaru, devo dire, è un racconto anche piuttosto delicato, nel senso che non è... c'ha un certo grado di violenza, perché insomma le cose che ne racconta sono psicologicamente pesanti, perché ovviamente si tratta di una devastazione emotiva che lei sta raccontando attraverso una metafora. Però è un racconto abbastanza che fila. Han Kang, ovviamente, essendo Han Kang, è mega violenta, quindi in realtà insomma è ben più crudo, anche perché i coreani sono noti per essere ben più crudi. Mi ha stupito il fatto che non ho letto da nessuna parte l'accostamento tra i due racconti, perché sono entrambi abbastanza famosi. Ora, Han Kang è molto più famosa anche dopo il Nobel, però effettivamente anche quest'altro libro, boh, è abbastanza conosciuto e nessuno ha messo le due cose in relazione, anche se veramente, vi assicuro, la trama è fondamentalmente la stessa. Ora, io non voglio insinuare che ci sia stato del plagio, però, belli entrambi, mettiamola così. Quindi vi consiglio, in particolare io più che quello di Han Kang, che comunque se ci avete un po', insomma, siete... diciamo in un momento della vostra vita non troppo destabilizzato, vi consiglio di leggere perché è molto bella, ha una scrittura molto bella. E però in questo caso invece vi consigliavo La foresta trabocca di Ayasemaru. Che figata, mi ricorda mille cose che vorrei dire, ne hanno già parlato, Full Might, quel mondo in cui, no, la gente si trasforma in piante, le avevo parlato. Mi ha fatto venire in mente un altro consiglio, così, che vi lancio, così, che è Bagel Call, che invece è una manga ambientato nel Medioevo, dove però ci sono questi alcuni che gli crescono dei rami. Ah, vedi. E questi rami però gli danno dei poteri particolarmente potenti, quindi vengono usati fondamentalmente come armi umane. Però c'è questa cosa della pianta che in realtà rafforza in questo caso l'essere umano, invece che trasformarlo in qualcosa che poi deperirà in qualche modo. Sì, poi consideriamo anche che soprattutto in Han Kang la cultura coreana parla sempre di reincarnazione, quindi in qualche modo lei sta rinunciando al suo corpo, che evidentemente avverte come un peso e come una fonte di dolore, e per incarnarsi in qualcos'altro. Quindi in realtà il suo... anche se chiaramente Han Kang è pessimista fino alla fine, quindi non ti lascia manco questa come speranza, però... l'ottica è un po' quella di base, cioè è una circolarità che in Occidente non abbiamo, ecco, non è la nostra cultura tipica, perlomeno. No, è vero, hai detto bene. Verissimo. Quindi, non lo so, io se no ho l'ultimo consiglio, se no passiamo anche ai tuoi, dimmi te come la vuoi. No, no, andiamo al tuo e poi concludiamo con il mio consiglio di manga serio e basta. Poi io c'ho un videogioco da consigliare leggero. Allora, io l'ultimo è un po' un fioretto, cioè mentre questi altri ve l'ho raccontati perché sono state le mie letture degli ultimi mesi, quindi... ve li raccontavo e consigliavo a ragion veduta. Questo invece è il mio fioretto dell'estate, cioè il libro che finalmente mi voglio leggere, perché è da veramente tanti anni che voglio leggerlo, perché mi è stato consigliato da chiunque. Si tratta di Technosis di Eric Davis. Questa volta esuliamo leggermente, non si tratta di una narrativa, ma si tratta di un saggio, un libro piuttosto famoso in realtà, che è stato però come dire, quasi nella leggenda, perché non era mai stato tradotto. È uscito poco tempo fa, se non sbaglio nel 2021-23, comunque veramente pochi anni fa. È uscito finalmente tradotto in italiano per Nero Edizioni. Fino ad allora si trovava soltanto in inglese. Io perlomeno, che fatico a leggere l'inglese, essendo un libro anche un po' corposo, non me l'ero mai accollata. Adesso esce finalmente in italiano, ce lo possiamo finalmente leggere. Tra l'altro si trova anche sulle nostre meravigliose fonti che citiamo spesso, tipo Annas Archive o altre. Si tratta di un libro il cui sottotitolo è Mito, magia e misticismo nell'era dell'informazione. È un libro che in realtà la prima edizione è del 98, però è stato aggiornato perché in realtà è piuttosto attuale, cioè devo dire che gran parte della sua tesi sono assolutamente leggibili anche ad adesso senza proprio battere ciglio. Però chiaramente Eric Davis a un certo punto ha detto sì, vabbè, però siamo nel 2025, sono successe un po' di cose dal 98 ad adesso, quindi ci ha aggiunto delle parti. Quindi la versione che vi leggete adesso, l'edizione tradotta che leggete adesso, contiene anche delle parti nuove che in qualche maniera sono un in più, ecco, non vanno a confutare la tesi che aveva fino ad allora, però la crescono, ecco. E, di base quello che di cui parla è la fede religiosa che riponiamo nella tecnologia. Cioè, quindi, da un punto di vista sia di potere salvifico che abbiamo attribuito, soprattutto negli ultimi decenni, alla tecnologia come qualcosa che ci salverà sia dalla natura, sia dal nostro destino di mortali, per esempio, sia dal nostro senso di impotenza atavico. Quindi, la tecnologia come salvifica dell'essere umano, sia come dogma, cioè perché in qualche modo... Ci regolamenta la vita, ci dà una regola dei canoni al quale ci possiamo attenere, e questo ci rassicura. Quindi la fede nel progresso, la fede nella tecnologia come qualcosa che se la segui ti porta nella direzione giusta, è qualcosa che ci rassicura noi esseri umani. E quindi Eric Davis fa tutta questo libro piuttosto corposo e molto ben scritto, tra l'altro anche in maniera piuttosto chiara, quindi penso, io l'ho letto un po', devo dire, ma non tutto ancora, però è scritto anche in maniera piuttosto comprensibile e potabile, e appunto senza di base necessariamente parlarne solo male, però dice ok, tutta questa fede religiosa che noi attribuiamo alla tecnologia, bisogna esserne quantomeno consapevoli e sapere che a un certo punto portano a delle storture gravissime, e per cui adesso parliamo di tech bro, parliamo di tutto quel mondo orrendo di Elon Musk eccetera, anche per questo, anche perché quel mondo là deriva dall'aver dato questo tipo di potere alla tecnologia, un potere quasi religioso, filosofico, e quindi non è un caso che le culture dominanti che ci stanno dominando attualmente, i risultati drammatici viviamo sulle nostre pelle tutti i giorni, sono i transumanisti, sono tutti quelli che hanno il terrore della morte e hanno il bisogno di pensare di poterla dominare attraverso la criogenesi, tutte quelle cose di cui ogni tanto abbiamo anche parlato. E quindi parlare di questo significa anche un po' capire da chi siamo dominati attualmente e anche capire che potere hanno gli aggeggi tecnologici che abbiamo in mano, al di là della funzione specifica che assolvono, ma anche del potere simbolico che gli attribuiamo. E, è un libro un po', appunto, come dire, considerato già iconico, nel senso che è consigliato tra i tanti da Bruce Sterling a Kim Bey. Insomma, è un qualcosa che vi consiglio di guardare, di leggere, non perché ve lo consiglio io, ma perché altri ben più importanti di me ve l'hanno consigliato. Anche un suo sito che si chiama technosis.com, dove aggiorna Eric Davis. Lui è un tipo del giro delle controculture statunitensi, tra l'altro ha scritto molte cose anche interessanti sul Burning Man Festival, sulle culture, le controculture californiane, in maniera però approfondita, non in maniera così buttata lì giornalistica. E su Guerre di Rete, tra l'altro, invece trovate un'intervista sulla cultura cyberpunk, sempre un'intervista a Eric Davis sulla cultura cyberpunk e di come abbiamo, diciamo, male assorbito gli anni 90. Quindi lui, gli chiedono: ma ok, ma tutta la cultura cyberpunk, domanda che ci siamo fatti spesso anche in questa trasmissione, quando ci sembrava che la tecnologia potesse in qualche maniera liberarci, anche avesse con sé un potere liberatorio, cosa ne è stato di quel mondo lì, cosa è andato storto? E c'è questa lunga intervista molto interessante che vi consiglio, anche questa, ecco. E questo è Technosis. Figo, molto figo anche questo, eh? Bella, bello. Mi piace. Lo leggerò e poi ve ne vorrò parlare con cognizione di causa, facendovi un pippone così, ma no, ancora non l'ho letto. Va bene, allora passiamo invece al mio consiglio, che parte dall'autore. Ne abbiamo parlato altre volte, Tsutomu Nikkei, uno dei miei autori in assoluto preferiti. È un... Rimaniamo in Giappone, anche se lui ha studiato architettura negli Stati Uniti, ha vissuto tanto a New York. Dopodiché è tornato in Giappone e ha detto: no, l'architettura fanculo, voglio fare fumetti. Crea il suo primo fumetto, grande capolavoro, ne avevamo già parlato, Blame. Quel gran capolavoro che è un manga atipico, nel senso che si parla poco, ci sono grandi scenari, si vede che è architetto perché è proprio questi scenari infiniti dove è perfetto, ogni sfondo è perfetto, non è un retino, non è una copia, è lui che ti disegna ogni singola cosa, pazzesca, bellissima. Ah, quindi disegna proprio? Sì, disegna tutto lui, bellissimo. E Blame è la sua prima opera, è un'opera che super consiglio, è uscita in mille versioni, ora c'è anche la, non mi ricordo come si chiama, che è enorme, tipo in 5 volumoni giganti, però le trovo molto scomodi sinceramente, quelle, e poi sono costosissime, quindi no. Però lui, tra tutte le sue opere, ne ha fatte tante, che per fortunatamente sono tradotte qui in Italia, quindi le troviamo facilmente, poi dopo, per esempio, Abara, A Post Meets e Night of Sidonia. Night of Sidonia, molto bello, che narra di questa astronave di umani, non, però umani un po' nel futuro, per cui ci sono per collegarci a quello che dicevi prima, tra l'altro ci sono alcuni esseri semi artificiali e devono fare la fotosintesi, non mangiano e fanno la fotosintesi, è anche più comodo, anche secondo me. Molto bello, perché insomma sono loro che viaggiano nell'universo cercando di scappare fondamentalmente da questo virus che insomma, che non è proprio un virus, è qualcosa di più, che li insegue, e loro usano un po' questa tecnologia, questa biotecnologia per combattere, e quindi poi da un certo punto di vista si trasforma anche un po' in battaglie fra robot, però sono robot biomeccanici, quindi qualcosa di diverso dal solito, molto interessante. Ma quello che io volevo consigliare invece sono le sue due ultime opere uscite qui in Italia, uscite da pochissimo. La prima è Tower Dungeon, che è uscita questo mese. Ah! Quindi il volume 1, quindi recuperabile da fare piano piano. E una uscita invece qualche mese fa, che si chiama Kaina of the Great Snow. Partiamo da Tower Dungeon, molto carino, fondamentalmente è la storia, è questo mondo un po' fantasy, diciamo, Però lui fa sempre queste ambientazioni e sono mezze fantasy, mezze fantascientifiche. Quindi si mescola comunque armi bianche ad armi... ad energie strane, perché non sono mai armi normali. E il nostro protagonista è un semplice campagnolo, fondamentalmente, però molto forzuto. Ma anche essendo un campagnolo molto ingenuo. E niente, fondamentalmente in questo mondo dominato da un regno, loro abitano dentro questo regno. In questo regno c'è una torre fluttuante governata non si sa cosa, che ha rapito la principessa di questo regno. E quindi c'è l'esercito reale che è lì a cercare di scalare questa torre, nel più classico dei cliché dei manga giapponesi, cioè la torre da scalare piano per piano, dove ci sono sempre più mostri. Però c'è qualcosa di più, anche perché i mostri non si capisce chi siano, da dove arrivino. Non sono mostri normali, anche qui sono mostri un po' mezzi biomeccanici, mezzi roba stranissima. E il nostro protagonista viene mandato a combattere perché fa parte di... insomma, i villaggi a un certo punto devono fornire un po' di soldati, no? Come nel Medioevo, o pagano cibo o pagano in forza lavoro i soldati, o entrambe. Lui chiaramente va a fare la forza, a fare il soldato. Soldi non ne ha né lui né nel villaggio, quindi si sacrifica, diciamo, un po' per il villaggio e parte in questa avventura. Però è molto figo, per esempio, il primo mostro che incontrano è questo mostro slime, che non sanno bene come combattere, si portano dietro questo sale, perché lanciandogli addosso il sale probabilmente assorbirà tutta la parte slime esterna e potranno colpire, perché sono immortali sto qui. E allora c'è tutto lui che cerca di riuscire a lanciargli sto sale, perché lui non sa combattere di base, sì, è un contadino, è forte, ma è un soldato. Quindi, insomma, molto bello, scritto bene. Invece siamo già alla quarta o quinta puntata, nel senso di volumetto, di Kind of the Great Snow Sea, che è molto figo invece questo, perché è un'ambientazione veramente veramente strana. Come di solito lui narra, non racconta mai perché veramente è successo, come siamo arrivati a questo, non si sa. È sempre una storia raccontata dal punto di vista di questi esseri umani o similari, che si trovano in una situazione disperata di base, in un mondo comunque che è avverso ai protagonisti, e loro loro si adattano a quello. Però è interessante perché praticamente ci sono questi alberi giganteschi, questi alberi mondo che salgono su e si creano queste fitte nuvole, però sono nuvole talmente dense, è neve praticamente. E loro vivono fluttuanti su queste distese di neve vicino all'albero. Tanto che hanno come mezzi di trasporto queste specie di lamantini che cavalcano per andare sopra il mare di neve. Oddio, molto detta così sembra bello. No, è fighissimo, quindi hanno un rapporto, devono catturare gli insetti, ma devono stare attenti a non far arrivare gli altri predatori, quindi... E quindi loro è molto caccia e raccolta, però insomma hanno una loro routine e collegamento con la natura. Però chiaramente un giorno la nostra protagonista incontrerà un'altra ragazza proveniente evidentemente da un altro mondo, perché è diverso da loro, forse da sotto, non si sa, che ben presto si scopre essere la principessa di qualche regno lì vicino. E quindi arrivano chiaramente gli sgherri a cercare di riprendersela, ma lei sta scappando, ma da che cosa non si sa. E fondamentalmente la nostra cacciatrice prende, la salva e la porta in salvo, facendogli conoscere un po' questo suo mondo. E da qui poi, non lo so perché non sono ancora andato avanti, ma si svilupperà. Però bellissima questa ambientazione, completamente nuova, devo dire, non l'ho mai trovata da nessuna parte. Quindi neve, piante, però nel cielo... tanti insettoni, strano, veramente strano. Ma che strano. Ganzo però, molto, insomma, consiglio. Sembra molto bella. Siamo in conclusione di puntata e per lanciarvi invece questo consiglio qua, che vi avevo già un po' raccontato, ma ve lo lancerò, vi farò ascoltare questo. Dr. Hakim, they have to stay together. You can't just give up. I wish you could be friends again. Aren't you ready for the roller coaster ride of your life? No. No. Stiamo parlando di It Takes Two, videogioco da giocare in due. Ne avevamo già parlato. Si gioca solo in due, non si gioca da, non, c'è, non puoi giocare da solo. Non puoi. Beh, per una volta, dai. Per una volta, per forza si deve giocare in due e si gioca dalla stessa console. Amicizia. Quindi su, alla vecchia, sul divano uno accanto all'altro, oh, o dove sei. Avete sentito l'incipit, fondamentalmente molto semplice il plot, genitori che litigano e stanno per divorziare, e la figlia disperata da questo divorzio, perché chiaramente ricorda i tempi in cui erano felici, piange su questi due pupazzetti che lei si è creata dei suoi genitori, piange dicendo vorrei tanto che non vi lasciaste, che steste ancora insieme. Queste lacrime chiaramente tirano fuori una sorta di magia, e allora i genitori, che si stanno proprio stanno per lasciare lì, stanno per prendere due strade diverse, vengono i loro spiriti vengono trascinati dentro questi pupazzetti. Pupazzetti alti 4 cm. Ok. Fatti di lana, fatti a uncinetto. E quindi sono loro e si trovano alti 3 cm e nel mondo che li circonda, quindi nella casa, nel giardino, nell'albero, che è tutto enorme, e devono riuscire a superare tutti i vari ostacoli che trovano, però lo possono fare solo se lo fanno insieme, e quindi riscoprire chiaramente il loro amore fra di loro. Però è bellissimo, tra l'altro è ganzo perché ogni le cose le puoi fare, metti che ne so, devi riuscire a salire una scala, per fermare sta scala devi riuscire, la trovi una sparapunti. Per sparare i punti fermi la scala e l'altra persona deve salire sulla scala per sbloccare un'altra cosa. No, vabbè. È intercambiabile, non è che ognuno può fare, uno sceglie una cosa, uno sceglie l'altro. E sono guidati da questo libro pazzo che gli dice, ah, voi dovete amarvi, scoprirete perché, ah, li prende per il culo tutto il tempo. Molto divertente, era quello lì che all'inizio diceva, siete pronti? E loro, no, boom, perfetto, andate. E incontri i mostri di tutti i tipi, la grande aspirapolvere, incontrerai la regina delle api, ti alleerai con gli scoiattoli. Bello. E è veramente, veramente molto divertente, molta azione, collaborazione, e musiche, come avete sentito, molto carine, dialoghi, tutto sommato, scritti bene. Insomma, è un bel gioco, dura poco, quindi... Ridi il nome? Aspetta, c'è la It, mi sembra, davanti. Sì. Sì, It Takes Two. Bello. Molto divertente, lo trovate facilmente usato, quindi a poche lire. Quindi molto molto bellino, consigliato. Giocateci insieme, divertiteci. Evviva! E qui si è fermata tutta la musica. Ma basta, è il segnale. È il segnale che dobbiamo andare a casa. Che dobbiamo andare a casa. Ci risentiamo, a settembre? Ma io direi di sì, perché ve lo dico, veramente qua dentro si muore. Sì, infatti. E quindi se non ci volete, cioè se volete una nuova stagione di Le Porte di Tannhäuser, fateci andare in vacanza. Esattamente, quindi ci risentiamo a settembre. Comunque potete ascoltarvi tutte le nostre vecchie puntate, tanto non è che sono contingenti. Sì, ma poi potreste anche non ricordarvele bene, quindi ripassarle. Esatto, quindi vabbè, basta. Un saluto dal buon Tuco e da Pinche e Wombat. Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.